Un mondo che bestemmia. Leggo nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 16, versetto 9. E gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio. Il versetto 11. E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. E versetto 21. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Nel libro dell'Apocalisse si assiste ad un peggioramento dello stato dell'umanità man mano che i giudizi di Dio si abbattono sul mondo. Chiunque abbia letto anche solo superficialmente questo libro si accorge dell'inseverimento dei giudizi man mano che si procede dai sigilli alle trombe e poi alle coppe, tre serie di sette giudizi che scandiscono gran parte del libro. Di pari passo, però, invece di assistere ad un ritorno a Dio in considerazione di ciò che sta accadendo, si osserva un peggioramento anche nel comportamento dell'umanità incredula. Il capitolo 16, da cui sono stati tratti questi versi, ci mostra un'umanità sempre più ribelle e sempre più blasfema. Per tre volte nello stesso capitolo dell'Apocalisse è scritto che gli uomini bestemmiarono Dio a causa dei flagelli che stavano capitando loro. Per ironia della sorte, gli uomini se la prendono proprio con la persona giusta, perché è lui che li sta giudicando. Ma invece di cogliere l'ultima opportunità per riconoscere il loro stato di peccatori e la giustizia dell'ira di Dio che si sta manifestando nei loro confronti, inveiscono contro di lui. In particolare il verso 11 ribadisce che non si ravvidero dalle loro opere. In Italia, fino a qualche anno fa, l'articolo 724 del Codice Penale sanciva che la bestemmia fosse reato. Negli ultimi anni la bestemmia è stata depenalizzata, ma rimane comunque un illecito, per cui è prevista una sanzione amministrativa contro chi pubblicamente bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la divinità. Eppure, più andiamo avanti e più la bestemmia dilaga. Ho conosciuto diverse persone incredule che bestemmiano e se la prendono con Dio quando soffrono o quando qualcosa va male nella loro vita. Non è strano prendersela con qualcuno del quale neghiamo persino l'esistenza? Ormai sono pochi ad indignarsi di fronte ad una bestemmia. La televisione e il cinema ci hanno abituato ad ascoltarle, come se si trattasse di cose normali. Viviamo in un mondo che bestemmia. E noi credenti cosa facciamo? Restiamo zitti? Abbiamo ancora il coraggio di dissentire quando ci troviamo di fronte a qualcuno che insulta il nostro Dio? Non è facile farlo, perché il risultato è spesso quello di essere derisi. A volte non avete l'impressione che mentre il mondo non si fa problemi a bestemmiare, i credenti quasi si vergognano di utilizzare il nome di Gesù durante una conversazione? Siamo diventati rinunciatari e ci facciamo problemi a dire in maniera franca agli altri che crediamo in Dio e che vogliamo onorare il suo nome. Il mondo sta procedendo velocemente verso la fine prevista nell'Apocalisse e sta andando di male in peggio. Ma in un mondo che bestemmia, se la prende con Dio e lo farà sempre di più, ci sono ancora tra di noi dei figli di Dio che vogliono onorare e difendere il nome del Signore nei fatti e nelle parole?